pazienza, datemi un paio di minuti, perché è chiaro. No, non se, no, due no, no, no, no, gliene posso dare uno al massimo, Massimo. Non si allarghi. Uno al massimo, Massimo. Ci dica. Facciamo uno e mezzo. Ottimo. Li contrattiamo. Vado al massimo. Allora, io mi trovo proprio al padronato dove ho fatto la domanda, la richiesta dell'ISEE. Aspetta che esco perché mi ritorna l'eco. Anche perché, esatto, non è carino che si mette lì a urlare con la radio mentre sta proprio lì al padronato. No, ma non c'è gente. Sì, ascolti. È un po' una nostra allora, inviata. Un mese fa, è vero, è vero. Esatto. E voglio proprio vedere. Come va a finire? Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Noi a Cuore Denari solo colonne sonore belle, adeguate. Come noi. Allora, appena qualche mese fa, perché Sting, perché ci siamo ritrovate a commentare la sortita di questo grandissimo artista che aveva dichiarato, suscitando anche un bel po' di dibattito, non lascerò nulla ai miei figli se non quello che si saranno guadagnati, quello che avranno se lo dovranno guadagnare, disse. Esattamente. Oggi invece a stuzzicare la nostra attenzione è stata un'altra notizia diffusa da una città molto più vicina a noi, arriva da Bergamo, dove una coppia di anziani che è venuta a mancare da poco, Anna e Giuseppe, ha scelto di devolvere 5 milioni di euro a 11 enti di ricerca e onlus. Vogliamo che i nostri soldi siano utili anche ad altri, hanno dichiarato davanti al notaio di fronte al quale poi hanno stilato e firmato questo testamento. Un testamento solidale, così si chiama in gergo giuridico. Pensate che l'Italia è il paese che anche in questi campi è purtroppo fanalino di coda europeo. È certamente un paese che al meglio tutela i diritti degli eredi, ma gli italiani difficilmente fanno testamento, popolo di scaramantici, e ancora più difficilmente devolvono in beneficenza. Oggi proprio del testamento solidale, della miriade di situazioni possibili che si possono manifestare, parleremo nella prima parte della trasmissione. Non è detto che bisogna che sia necessario avere 5 milioni di euro da devolvere in beneficenza. Magari qualcuno non ha parenti, ha un importo molto inferiore e vuole destinarlo ad un'associazione di volontariato, per cui si deve seguire una prassi ben precisa, e stamattina ne parleremo. Raccontateci intanto che cosa ne pensate all'800 24 00 24, perché insomma, Nicoletta, sono decisioni prese con il cuore, ma poi bisogna azionare anche il cervello per muoversi con cautela in questo terreno. Hai ragione, Deborah, e infatti di cervello parleremo nella seconda parte della trasmissione, e quindi se avete a cuore la salute del vostro cervello chiamateci sin d'ora. Parleremo di alimentazione, perché sempre più ricerche dimostrano che lo stile alimentare ha un ruolo determinante nel proteggere il nostro cervello dall'insorgere precoce dei disturbi cognitivi e delle demenze. Se infatti fino a non molto tempo fa si riteneva che il funzionamento della mente dipendesse unicamente dalla dotazione genetica, oggi si può affermare che non solo non è così, ma che al contrario fattori ambientali di tipo alimentare, fisico e cognitivo rivestono un ruolo fondamentale. Insomma, la prevenzione passa in primo luogo attraverso un corretto nutrimento del cervello, nutrimento inteso come alimentazione, ma anche come esercizio fisico e allenamento intellettuale. Questi sono i temi della quinta edizione della Settimana Mondiale del Cervello, che si è aperta ieri, si concluderà il 22 marzo. In tutta Italia incontri divulgativi, convegni scientifici, attività per gli studenti e anche l'iniziativa Neurologia Porte Aperte, che prevede visite guidate dei reparti, dei laboratori ospedalieri. Tutto questo organizzato dalla SIN, la Società Italiana di Neurologia. E quindi per il vostro cervello, se avete a cura la salute del vostro cervello, iniziate a prenotare sicuramente il nostro numero verde, l'avete memorizzato, 800 24 0024. Testamento, testamento. Bene, allora, chi sono i beneficiari? Beh, come sai, io non ho parenti in vita. E naturalmente voglio che i miei adorati gatti siano sempre trattati bene. E certamente nessuno lo può far meglio del mio fedele maggiordomo Edgar. Ma ti dai, ti vuoi dire che vuoi lasciare tutto il tuo cospicuo patrimonio a Edgar? No, a Edgar, ai miei gatti. Ai tuoi gatti? Ai gatti? Non è giusto. Capirai. Ogni gatto vivrà circa 12 anni, non posso aspettare. Ogni gatto ha 9 vite. Allora, ecco, nel caso degli Aristogatti è la scelta di devolvere l'eredità ad un animale domestico che mette su tutte le furie il maggiordomo. Ma se togliamo i gatti e ci mettiamo un'associazione, un ente di beneficenza, un ente di ricerca, una realtà del terzo settore, ci troviamo di fronte al cosiddetto testamento solidale. Anche questa scelta potrebbe lasciare un po' di stucco ai cosiddetti eredi naturali o ai familiari. C'è già chi ci scrive proprio ponendoci questo quesito che adesso soddisferemo con i nostri ospite che fra un attimo vado a presentarvi. Noi siamo partiti dal caso di Bergamo, dove questa coppia di anziani, che peraltro aveva avuto anche una storia d'amore molto bella, Nicoletta, poi magari la riproponiamo agli ascoltatori, Anna e Giuseppe, ha scelto di devolvere 5 milioni di euro a 11 enti di ricerca e onlus. Ma guardate che a prescindere dai testamenti che si firmano formalmente davanti ad un notaio e che esprimono con chiarezza queste volontà, ci sono tanti casi meno chiari in cui magari delle persone esprimono verbalmente delle volontà di lasciare del denaro al terzo settore, poi però quando si tratta di tramutare queste parole in fatti tutto si complica, perché non sempre parliamo poi di liquidità, no? Ma possiamo avere anche al centro del lascito potenziale, che ne so, gioielli, mobili, quadri, beni di altro tipo che è molto più difficile monetizzare e poi devolvere. Quindi abbiamo una miriade di situazioni possibili, oggi cercheremo quantomeno di spiegarne qualcuna con il nostro ospite che salutiamo, il notaio Albino Farina, consigliere del Consiglio Nazionale naturalmente del notariato con delega al terzo settore. Buongiorno notaio e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Eccoci a lei. 800 24 0024, il numero verde per gli ascoltatori ai quali chiediamo di raccontarci cosa ne pensano, cosa ne pensate. Voi fareste questa scelta? A chi devolvereste i vostri averi? Come ci rimarreste se un vostro familiare dovesse prendere questa decisione? Per tutte le vostre domande e opinioni su questo tema ovviamente ci sono anche gli sms 349-238-6666, scriveteci se volete anche su Twitter, su Facebook, come meglio credete. I casi sono molti, stamattina vorremmo capire cosa succede ai possibili eredi, se genitori e nonni non vogliono lasciare loro nulla a vantaggio del mondo del volontariato, delle onlus, come viene appunto anche disciplinata la questione della cosiddetta legittima. Notaio Farina, però, a prescindere un po' da tutte le considerazioni di carattere generale che possiamo fare, capisco anche da quello che leggo da statistiche che voi pubblicate ricorrentemente che i testamenti solidali non sono ancora così diffusi e frequenti. È un problema culturale italiano, siamo un po' tirchi, vogliamo che rimanga tutto in famiglia, non ci fidiamo di quello che potrebbe succedere al nostro denaro. Qual è il problema? Ma direi che è una molteplicità quasi caleidoscopica di fattori, cioè sicuramente è un po' un problema culturale. Io non direi che siamo un paese di tirchi, quanto piuttosto di scaramantici. In effetti forse un po' imbevuti dalla letteratura anche cinematografica, che posiziona il testamento proprio all'esalazione dell'ultimo respiro di vita, è questa la parola che evoca evidentemente immagini, appunto, e sensazioni che non sono del tutto gradite, e quindi bisognerebbe invece rivoluzionare un po' il pensiero degli italiani e far capire che è opportuno che il testamento venga fatto sì in un'età anche appunto matura, nella quale si possa disporre con consapevolezza, con la pienezza delle proprie facoltà mentali e anche diciamo con una certa progettualità, senza avere paura che poi quello che viene scritto nel testamento abbia un significato di definitività, in quanto il testamento può essere modificato in qualunque momento. Devo dire che un po' complica la situazione anche il nostro sistema normativo, che tutela molto la famiglia nucleare, sì. Parlo del coniuge, dei figli e in assenza di figli degli ascendenti, che sono i cosiddetti legittimari, che per esempio in alcuni paesi come il Regno Unito, pensiamo che i paesi di cultura anglosassone sono molto più avanti noi sia nell'approccio nei confronti del testamento e sia soprattutto nei confronti del testamento solidale non esistono, e quindi una combinazione di fattori. Quali sono, notaio Farina, invece le peculiarità del caso di Bergamo? A me questa storia ha colpito molto, come è successo anche ad altri colleghi giornalisti che poi l'hanno riportata, è stata prima riportata dal Corriere e poi riportata di nuovo dall'Huffington Post, è la storia di Anna e Giuseppe, lei bergamasca, lui siciliano, la racconto brevemente, ufficiale dell'esercito, si sono conosciuti ventenni, raccontano i giornali, durante le libere uscite del marito quando lavorava alla caserma Montelungo a Bergamo. Questa coppia di anziani, pensate, che è venuta a mancare lo scorso novembre, sono morti a distanza di 11 giorni l'uno dall'altro, ma già dall'anno prima si erano preoccupati di gestire appunto questo loro patrimonio che ammontava a 5 milioni di euro circa. Hanno individuato 11 realtà destinatarie di fondi, hanno suddiviso praticamente questo importo esattamente in parti uguali e hanno scelto quindi con grande lucidità le organizzazioni a cui donare questo denaro. Poi magari le elenco anche, così per soddisfare le curiosità dei nostri ascoltatori. Le peculiarità, dicevo, notaio Farina, del caso di Bergamo dal punto di vista notarile e giuridico quali sono? Beh, mi consenta, innanzitutto dal punto di vista umano mi ha profondamente colpito anche questa morte a brevissima distanza dell'uno dall'altro, quindi una vita insieme, vissuta all'unisono, che si è conclusa quasi allo stesso modo. Ma dal punto è abbastanza di vista frequente giuridico, però davvero, con queste coppie che sono state così unite in vita, spesso quando uno dei due partner muore a breve distanza si spegne anche l'altro, e sono delle storie d'amore incredibili. Ed è una cosa che colpisce molto anche proprio per la longevità del rapporto d'amore. E dal punto di vista giuridico io direi la prima cosa che colpisce e mi fa molto piacere leggerlo è che si erano rivolti ad un notaio, perché è fondamentale, certo, in queste situazioni evitare il cosiddetto fai da te, anche se l'impulso è quello di mettere nero su bianco e di lasciare il proprio patrimonio, di dividerlo evidentemente, appunto di destinarlo, bisogna essere consapevoli di quello che si fa per evitare un domani che poi coloro che sono stati designati eredi o ai quali è stato attribuito un determinato bene non possano conseguirlo, perché magari il testamento viene impugnato, perché c'erano delle motivazioni di carattere giuridico che spingevano in senso contrario. Sicuramente i due non avevano figli, se tutto quello che hanno destinato è andato in funzione di un testamento solidale di cui parlavamo appunto all'inizio, cioè esatto, quindi a favore di enti del terzo settore, ed evidentemente c'era anche una comunione di intenti. Io non ho avuto l'occasione di leggere il testamento, sebbene sia stato pubblicato, e non so se gli stessi avessero eventualmente appunto programmato comunque almeno un legato in sostituzione di legittima dell'uno a favore dell'altro, e comunque per garantire la sopravvivenza dignitosa, certo, dell'uno all'altro, e poi dopo la morte il più longevo dei due la destinazione a favore degli enti non profit. Mi piace molto vedere che le somme sono state ben individuate, e questo è molto importante, e che siano stati esattamente identificati gli enti a favore dei quali lasciare queste somme, anche in dipendenza e probabilmente anche in ragione delle esperienze personali di vita, perché di enti che operano nel terzo settore ma che siano ben strutturati, e questo anche molto importante, ce ne sono tanti, fondazioni, associazioni riconosciute, onlus, ma fondamentalmente ciascuno opera in un diverso ambito, sempre ugualmente importante, appunto rilevante. Tante volte lo vedo anch'io nella mia esperienza che il cliente poi lascia a quelle associazioni o fondazioni che nella propria esperienza di vita ha sentito più vicine per la propria mission, come si dice. Esattamente. Allora, peraltro ricordiamo, notaio Farina, che lei ha, a parte il fatto che ha la delega per il terzo settore per il Consiglio Nazionale del Notariato, ma in realtà in questi anni avete strutturato un'iniziativa molto più definita in questo campo. Ogni anno si celebra la giornata internazionale dei lasciti, l'ultima è stata a settembre, non mi ricordo bene se è ogni mese di settembre questa giornata, ce ne sono state già due, mi sbaglio? Sì, no, non si sbaglia. e nell'ultima occasione appunto sono stati diffusi dei dati molto interessanti secondo i quali intanto il numero degli italiani che inseriscono il lascito solidale nelle loro ultime volontà sono in crescita, sono donne soprattutto, il 60% del totale di coloro che prendono questa decisione. E poi racconteremo anche come fate notaio, voi come Consiglio Nazionale del Notariato Consulenza, a questo gruppo di organizzazioni che si è messo insieme proprio per cercare di fare questa campagna di informazione necessaria in questo mondo. 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori. Ci sono però già delle bellissime testimonianze, io direi di dare subito parola ai nostri amici. Rosy, buongiorno, ci chiama da Monza. Buongiorno. Buongiorno, mio marito ed io siamo sessantenni, coniugati senza figli, e da 20 anni noi, non conoscendo il termine esatto testamento solidale, però da 20 anni operando in Africa come volontari presso suore missionarie e preti missionari, nostri amici, non necessariamente, abbiamo un testamento per olografo scritto da noi, dove diciamo che dividiamo a metà esattamente quello che è il conto corrente e la casa con tutto quanto in esso contenuto da destinare a questi due enti. Ecco, volevo per cui non diciamo ha intanto interpellato mentalità... un notaio, Rosy. No, non abbiamo interpellato un notaio. Certo. E adesso molti ci hanno detto che c'è una differenza sostanziale fra testamento e donazione. Certo. Rosy, chiariamo proprio stamattina, abbiamo la puntata giusta per lei. Grazie mille, notaio Farina. Allora, intanto il testamento olografo scritto di proprio pugno è valido, ed è vero che è bene che i due coniugi scrivano due documenti separati invece che farne uno e firmato da entrambi? La risposta ad entrambe le domande è affermativa. Allora, il testamento olografo è il testamento scritto interamente di proprio pugno, datato e sottoscritto dal testatore. Ed è un atto personalissimo, capita spesso, lei ha colto uno dei problemi, che i due coniugi vengano a chiedere una consulenza e dicano: abbiamo fatto testamento, te lo esibiscono al notaio e si verifica che il testamento è unico firmato da entrambi, perché hanno sempre ragionato come un'unica testa e un unico cuore. In totale buona fede, insomma, fanno. Esatto, in totale buona fede sarebbe assolutamente sbagliato. E prendendo anche un pochino l'occasione della telefonata della radioascoltatrice, io direi comunque che è bene che quel testamento lo facciano visionare, lo facciano controllare appunto dal notaio. Da qualcosa che mi hanno detto è perfetto, indubbiamente, però ricordiamo che per esempio la casa che è adibita a residenza familiare è destinata, almeno come diritto di abitazione dopo la propria morte, a favore del coniuge. Lasciare già direttamente la propria metà ad un'associazione significa far trovare l'altro coniuge, a meno che non si abbia il caso di morire contemporaneamente nello stesso istante, in una situazione di comproprietà che magari potrebbe risultare anche scomoda per l'amministrazione, mentre l'intento sarebbe probabilmente quello di dire: quando morirà il più longevo dei due, sicuramente questa casa viene destinata all'associazione che noi amiamo perché ha svolto un'azione meritoria. E a proposito delle associazioni, con riferimento all'affermazione che lei aveva fatto in precedenza, effettivamente notiamo un'inversione di tendenza. Negli ultimi tempi c'è un sensibile, insomma, incremento dei testamenti solidali, e devo dire che la maggioranza, come ha sottolineato lei, sono donne, anche perché un lascito solidale è soprattutto una trasmissione, oltre che di un proprio bene, una somma che può essere anche piccola, anche appunto simbolica, di un valore di solidarietà, un valore anche appunto, diciamo così, di trasmissione in futuro dei valori nei quali si è creduto a favore di associazioni, e quindi le donne in questo sono estremamente sensibili, molto concrete. Ottimo, molto grazie per averlo rimarcato con ulteriore forza in quest'ultimo passaggio, notaio. Allora, noi abbiamo la borsa adesso, poi sentiremo il caso di Luigi da Milano, un pochino più delicato del precedente. Vorrei anche cominciare a sollevare le questioni sulle forme con cui può avvenire il lascito, perché non è che uno dice lascio tutto questo, poi magari esiste anche un contenitore adeguato dal punto di vista giuridico, che ne so, una polizza vita, un conto corrente, dove deve essere trasferito anche questo denaro che si vuole lasciare attraverso la modalità del testamento solidale. E poi soprattutto, e questa la sollecitazione che arriva dal caso di Luigi da Milano che sentiremo subito dopo, il lascito solidale può essere anche condizionata ad una determinata volontà: io lascio questo denaro ad un'organizzazione a patto che faccia questo. Cercheremo di capirlo subito dopo i mercati. cuore e denari. Clifford Stein, nessun messaggio, vuol vedere? Sì, il mio cuore dice una cosa, il mio cervello ne dice un'altra, sai. Non è facile, no, mettere d'accordo cuore e cervello. Per me, cuore e cervello, i miei non si danno neanche del tu. Cuore e cervello, i vostri si danno del tu, e quanto vi sta a cuore la salute del vostro cervello? A partire dalle 11.45 cercheremo di conoscere i gusti del cervello per sapere come nutrirlo correttamente, quindi iniziate a chiamare. Nutrire il cervello attraverso una dieta equilibrata e con stimoli adeguati, anche questo fa parte del nutrimento, aiuta non solo a prevenire disturbi cognitivi e neurodegenerativi, ma può aiutarci anche a limitarne la progressione, quindi vi aspetto. Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. E qualcuno in famiglia potrebbe effettivamente protestare scoprendo che nella linea di successione è stato scavalcato da un ente di ricerca o di beneficenza, da una onlus, partendo dal caso di Bergamo. Oggi ci stiamo occupando di testamenti solidali e chiaramente ci state ponendo tantissimi quesiti. Segno che c'è grande sensibilità attorno a questo argomento, poi però quando si tratta di trasformare le volontà in atti concreti, qua il passo è un po' più difficile perché si devono prendere in considerazione tanti elementi. Oggi stiamo raccogliendo le vostre opinioni, i vostri casi personali, soprattutto all'800 24 00 24, come sempre ci fa molto piacere che li condividiate con noi, e stamattina con il nostro ospite che è il notaio Albino Farina, consigliere del notariato con delega al terzo settore. Volevamo sentire Luigi, che ci chiama da Milano. Buongiorno Luigi, benvenuto, e vuole condividere la sua storia con noi. Grazie. Buongiorno a lei e al suo ospite, il dottor Farina. Faccio una precisazione. Noi, io e mia moglie, finanziamo già un ente no profit per il sostegno delle persone diversamente abili in età avanzata. Allora, ci ponevamo il problema, discutendo con il notaio, avevamo chiesto qual era la formula migliore per un domani per tutelare il nostro figlio che è diversamente abile. Lei ci aveva consigliato di mettere un giudice tutelare per il patrimonio e un medico per poter controllare, diciamo, la qualità di vita del bambino o dell'adulto che sarà più avanti. Certo. Però io e mia moglie avevamo pensato appunto a questo lascito solidale a condizione, però ciò che proprio non è un lascito solidale, perché pone una condizione quale? Quella di prendere in carico questa persona. Preciso che il lascito sarà nel futuro, anche perché tra polizze, banche e beni immobili sarà sostanzioso, quindi diciamo che potrebbe coprire abbondantemente l'aspettativa di vita dell'adulto che poi verrà messo in mani di questo ente. Certo. Il problema era se si riusciva a legare questo lascito alla volontà di prendersi cura di questo ragazzo. Luigi, è chiarissima la sua domanda. Guardi Luigi, devo dire che è anche un tema molto ben presente ai notai, no? Notaio Farina, si può condizionare un lascito solidale ad una volontà precisa? È proprio così, saluto anch'io il radioascoltatore, ha fatto benissimo a consigliarsi con il proprio notaio di fiducia. Sì, è possibile imporre un onere. Nel momento in cui io destino una determinata somma, qui un cospicuo patrimonio, a favore di un ente, posso imporgli quello che in gergo tecnico, quindi con termine giuridico, si chiama onere, che è proprio il vincolo di destinare la somma ad un determinato fine. In questo caso io consiglierei anche di nominare una terza figura, che è quella dell'esecutore testamentario, cioè di una persona di fiducia, che potrebbe essere anche un altro ente, che vigili sull'operato e verifichi che l'onere sia effettivamente adempiuto, e prevedere nel testamento, visto che questo è stato l'unico motivo che ha spinto il testatore a destinare quel cospicuo patrimonio a favore dell'ente, l'espressa risoluzione della disposizione testamentaria nel caso in cui quelle volontà non vengano esattamente eseguite. Certo, il passaggio precedente, perché è stato consigliato a Luigi anche in fase preventiva di individuare anche un giudice tutelare ed eventualmente un medico che monitori costantemente, immagino, la situazione di questo figlio, sono comunque suggerimenti secondo lei validi o, come dire, una prassi aggiuntiva che considera come, notaio Farina? No, li considero sicuramente validi. Anche il medico potrebbe essere, per esempio, l'esecutore testamentario, se è una persona di fiducia, controllare che effettivamente quello che desideravano i genitori appunto in vita sia esattamente eseguito dopo. Per cui insomma la risposta definitiva per Luigi è che si può condizionare un lascito ad una determinata organizzazione a patto che questa organizzazione poi si sobbarchi, tra virgolette, adesso non mi viene un altro termine, di questo onere, sì, come in gergo lo giuridico rispetti. Lo rispetti, brava, è una sorta di patto. Esattamente. Allora andrei ad una storia diametralmente opposta, quella che ci racconta Umberto. Ci chiama dalla provincia di Pistoia. Buongiorno Umberto. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, come diceva lei appunto, mi chiamo Umberto e chiamo da Pistoia. E la mia questione è questa: io vorrei lasciare i miei beni, diciamo, a un ente di ricerca o qualcosa di simile, però ho un figlio a cui non vorrei lasciare niente. Volevo sapere se è possibile fare una cosa del genere oppure c'è sempre la legittima e certo, sono dei parametri da rispettare. Certo. Umberto, un grazie. Un po' come Sting. Esattamente. Notaio, questa credo che peraltro sia una un po' anche questa una delle domande più ricorrenti che vengono poste ai notai quando le persone, le famiglie si pongono, no, la questione dell'eventuale lascito solidale. Quali sono i diritti dei propri familiari qualora li si voglia spogliare completamente da questi diritti? Quindi in che caso il figlio di Umberto ha comunque il diritto a questa quota legittima che è tipica di ogni eredità? Sì, il figlio ha sempre diritto ad una quota di riserva o quota di legittima. Ci sono alcune categorie di parenti, componenti della famiglia nucleare innanzitutto, quindi il coniuge e i figli, in assenza di figli anche gli ascendenti, che si chiamano legittimari e ai quali l'ordinamento comunque riserva una quota del patrimonio, anche sia in assenza che addirittura contro la volontà del testatore, a meno che costoro non si macchino di delitti importanti anche nei confronti della persona del testatore, vengano dichiarati indegni, non è possibile diseredarli, fra virgolette, come si sente molto spesso e si vede anche appunto nei film. Per cui necessariamente una quota del patrimonio il papà la dovrà lasciare anche al proprio figlio. E quindi Umberto deve, come dire, tra virgolette, rassegnarsi anche a questo fatto, però insomma c'è la legittima, poi tutto il resto, se vorrà sostenere un'attività, un'organizzazione di ricerca, una onlus, lo faccia. Però stavo pensando un po' al fatto che la scelta di Umberto forse è più nell'ottica di quelle, come dire, scelte emotive che si fanno più per voler diseredare qualcuno più che sostenere un'organizzazione, no, notaio? Questo per arrivare all'altra domanda che le voglio fare. Ci sono, se vuole raccontarcelo anche a livello personale, delle situazioni di fronte alle quali il notaio è un po' portato a scoraggiare anche il testamento solidale. So anche che ci sono delle organizzazioni che si presentano ai notai dicendo loro: se vi arrivano questi casi al limite, date qualche suggerimento alle persone di lasciare il loro denaro a noi. Insomma, vedi che le situazioni sono tante, per cui davvero qualche volta sul notaio viene caricata una bella responsabilità, no? Farina. Siamo abituati, è una professione che è all'insegna della responsabilità, è una responsabilità enorme anche perché noi tuteliamo evidentemente il cittadino, ma in quanto lo portiamo a rispettare la legge, quindi siamo garanzia di sicurezza nell'ambito dei traffici giuridici e di tutela della legalità, quindi non si può non fare presente a una persona che chieda di redigere un testamento in quei termini quali sono le conseguenze, a che cosa va incontro, e naturalmente non si possono subire pressioni da parte di chi che sia che possano in qualche modo condizionare la volontà sovrana del cittadino. Quindi il notaio naturalmente consiglierà di redigere un testamento conforme alla legge, quantomeno avvisando il cittadino che qualora estrometta dalle disposizioni testamentarie un figlio, costui avrà ben 10 anni di tempo dopo la morte del babbo, da quando l'ente avrà accettato eventualmente l'eredità o avrà conseguito il legato. Ah già, perché legato. C'è anche tutto quell'aspetto, perché cioè, potrebbe anche esserci, non facciamo oggi in tempo a parlarne, ma ci riserviamo di farlo in un'altra puntata. L'ente potrebbe anche dire: a me questo denaro non interessa. Incredibile. Per cui, insomma, poi ecco, l'erede della legittima ha comunque 10 anni di tempo per poter risollevare la questione. Notaio, purtroppo non riusciamo ad approfondire questo aspetto, ma in ogni caso credo che le informazioni già più importanti le abbiamo date. Rapidamente il sito internet dove poter trovare le informazioni sull'acido solidale. C'è tutta un'iniziativa molto ben strutturata del Consiglio Nazionale del Notariato. Sì, assolutamente sì. Noi, per quanto riguarda il discorso dell'ascito solidale, abbiamo messo a disposizione degli enti del terzo settore con i quali collaboriamo non soltanto la nostra assistenza tecnica, ma proprio siamo proattivi in quanto crediamo che questo sia una riforma innanzitutto culturale. Vogliamo che il notariato partecipi, come ha sempre fatto, alla crescita culturale del paese. Mm-hmm. Ci sono colleghi in tutte le zone d'Italia, sì, che sono disponibili, che ogni volta partecipano, che danno informazioni gratuitamente ai cittadini e a tutti gli assistiti da parte degli enti del terzo settore. Collaboriamo alla redazione di brochure e di libricini divulgativi che spiegano proprio il funzionamento del meccanismo ereditario. E non solo, metteremo tutte le informazioni sul nostro profilo Facebook, naturalmente, per dare modo ai nostri ascoltatori di andare a caccia di tutte le informazioni di cui sono interessati. Grazie notaio Farina, grazie soprattutto per la sua chiarezza, la sua disponibilità, ci sentiamo presto. Grazie a voi, buon lavoro. Proseguimento e complimenti. Cuore e denari. Il cibo sia la tua medicina, che la medicina sia il tuo cibo. La raccomandazione di Ippocrate è quanto mai attuale, vale anche per il nostro cervello, perché riassume i risultati di molte ricerche che hanno dimostrato che non solo l'alimentazione può svolgere un ruolo protettivo e preventivo nei confronti di malattie neurodegenerative e quindi nel mantenere il nostro cervello sano, ma svolge anche un ruolo molto importante anche quando la malattia viene diagnosticata. Perché lo stile alimentare può interferire positivamente o negativamente con le terapie e renderle quindi più o meno efficaci. Di tutto questo parleremo oggi. La parola chiave è nutrimento, che è il tema centrale della Settimana Mondiale del Cervello, organizzata dalla SIN. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Mario Zappia, ordinario di neurologia e direttore della clinica neurologica del Policlinico dell'Università di Catania. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, iniziamo a capire i gusti del nostro cervello. Se fosse una persona, come la descriverebbe lei che lo conosce bene? Sarebbe un buon gustaio, penso io, curioso, attivo. Sì, sicuramente il nostro cervello è un buon gustaio, nel senso che ama i buoni cibi, rifugge dal cibo spazzatura. E quindi da questo punto di vista è sicuramente un buon gustaio con moderazione, sa scegliere, sa individuare quelli che sono gli alimenti sani e corretti e soprattutto è curioso, come lei ha detto, perché non si sottrae alla ricerca di alimenti che magari sono inusuali ma che possono rappresentare una protezione e una condizione che mantenga un funzionamento efficace delle funzioni cui quotidianamente svolge. 800 24 00 24, se avete a cuore la salute del vostro cervello, se volete capire come nutrirlo in modo adeguato, non solo attraverso l'alimentazione ma anche attraverso degli stimoli per mantenere la riserva cognitiva. Apriamo naturalmente anche le nostre telefonate a chi ha un familiare a cui è stata fatta diagnosi di una malattia neurodegenerativa, perché i neurologi e le ricerche si stanno concentrando anche sul ruolo dell'alimentazione per cercare di limitare o potenziare magari l'effetto di alcune terapie. Quindi 800 24 00 24 per capire quali sono i risultati delle ultime ricerche riguardo ad una dieta suggerita, consigliata, raccomandata nel caso di Parkinson, Alzheimer o sclerosi multipla, temi che sono stati affrontati anche, naturalmente verranno affrontati anche nel corso della Settimana Mondiale del Cervello. Ma professor Zappia, al nostro cervello, abbiamo capito, piace la varietà, ma quali sono gli alimenti a cui la ricerca riconosce un ruolo protettivo e preventivo? Sì, oggi disponiamo di una vasta mole di studi che dimostrano che alcuni alimenti sono in grado di diminuire il rischio di alcune malattie come quelle che, di cui lei ha parlato, malattie neurodegenerative, malattie anche di tipo infiammatorio come la sclerosi multipla. I cibi e gli alimenti che hanno queste proprietà sono soprattutto gli alimenti ricchi in nutrienti antiossidanti e micronutrienti come ad esempio le vitamine. Perché sono importanti questi alimenti, questi nutrienti? Perché contrastano quello che è il processo neurodegenerativo in cui attraverso la produzione di molecole dannose come i radicali liberi appunto possono innescare quel processo che poi dà luogo a malattie che conosciamo come l'Alzheimer, come il Parkinson. Alimenti come la frutta, la verdura, che appunto sono ricchi di questi micronutrienti, offrono una valida protezione per cercare di proteggerci dallo sviluppo di queste terribili malattie. Ma non solo, abbiamo anche la possibilità di nutrirci con degli acidi grassi insaturi, ad esempio gli oli di derivazione vegetale, oppure gli acidi grassi poliinsaturi, cosiddetti omega 3, presenti nel pesce azzurro. In altre parole, ho delineato quella che è il cuore della dieta che nelle nostre tavole italiane quotidianamente bene o male somministriamo al nostro cervello, cioè la dieta mediterranea. Una dieta ricca appunto in frutta, in verdura, ricca di acidi grassi insaturi, oli appunto di derivazione vegetale come l'olio d'oliva. A questo si deve aggiungere anche un alimento che probabilmente sulle nostre tavole in quantità moderata è presente, cioè il vino rosso. Il vino rosso presenta nella sua composizione tanti antiossidanti, tra questi il risveratrolo, che è appunto una sostanza in grado di contrastare quei radicali liberi di cui parlavo precedentemente. Oggi abbiamo degli studi che dimostrano che un'assunzione moderata di vino rosso, mezzo bicchiere a pasto, è in grado di diminuire il rischio di sviluppare malattie come ad esempio la malattia di Parkinson. Qualche anno fa al Centro Sud abbiamo condotto una ricerca su pazienti affetti da malattia di Parkinson, soggetti normali di controllo, e abbiamo visto che tra i soggetti di controllo vi era, che quindi non sviluppavano la malattia di Parkinson, avevano un maggiore consumo di vino rosso, come se questo agisse appunto da protettore per lo sviluppo di questa condizione. Altre sostanze sono il caffè, anche il caffè può giocare un ruolo protettivo. Naturalmente parliamo di un consumo in quantità moderate, 1-2 espressi al giorno, non di più, naturalmente nelle persone che possono assumere questa bevanda, questa sostanza, senza e che non hanno delle controindicazioni effetti, certo, di altro collaterali. Tipo. Professor Zappia, noi adesso dobbiamo dare la linea al nostro GR. Naturalmente nel corso della trasmissione, a cui vi invitiamo a partecipare chiamando il nostro numero verde, chiederemo anche al professor Zappia di indicarci se ci sono dei segnali che ci evidenziano una, direi, sofferenza del nostro cervello. Cuore e denari. Però a quanto pare nella TAC si è evidenziato che io qua in testa c'ho tipo una noce grande così, piccola, colore nocciola, che lui clinicamente l'ha chiamata cervello, può essere? No, non è che sono dottore, non lo so. Che dice che addirittura che è una cosa che io ho da quando ero piccolo, da quando la nascita. E tu non l'hai mai saputo? Ma se non mi ha dato mai fastidio, come me ne accorgevo? Eccoci qui, siamo di nuovo insieme. A tavola non si invecchia, dice un vecchio adagio, e la ricerca dimostra che uno stile alimentare vario ed equilibrato aiuta il cervello a mantenersi giovane, sano e attivo. Ma la dieta, lo sappiamo, da sola non basta, il cervello ha bisogno anche di stimoli, di allenamento, di imparare cose nuove, come ci segnala un nostro ascoltatore. Altro che, è stato il primo a scriverci questa mattina, quasi quasi Luigi, si merita anche qualche libro della libreria di Cuore e Denari. Luigi ci scrive: io faccio il contadino, Posso confermare che da quando ascolto la vostra radio, quasi dagli albori, il mio cervello ne ha guadagnato in maniera grandiosa. Non è piaggeria, naturalmente, Luigi, ma ne siamo assolutamente certi, insomma, che il suo era un messaggio carino. Chissà che prodotti buoni che coltiva. Mi viene già l'acquolina in bocca. È tutto poi un circolo virtuoso, naturalmente. Più cose buone lui produce, più mangia bene e più il suo cervello, hai visto? Mi sembra perfetta questa associazione, professor Zappia, che dice: perché una cosa è certa, mangiare male danneggia i neuroni. Questo è un concetto che voi sottolineate in modo molto chiaro. Beh, assolutamente, direi quasi lapalissiano. Mangiare male non fa bene a nessuna cosa e soprattutto non fa bene al nostro cervello. Cosa si intende per mangiare male? A parte il cosiddetto cibo spazzatura, il junk food che abbiamo importato da altri mondi, dagli Stati Uniti. Ebbene, quasi a dire non è colpa nostra, non è farina nostra, del nostro però, sacco. Ecco. Non è farina del nostro sacco, però purtroppo passivamente oramai attuiamo delle scelte sbagliate che bene o male oramai ci appartengono, sono anche scelte nostre. Vediamo i nostri bambini che tendono all'obesità, vediamo sempre tra gli adulti un incremento di persone sovrappeso, tutto questo non fa bene. Gli alimenti che comportano queste assunzioni di acidi grassi di derivazione animale, eccesso di carni rosse, eccesso di sale, sono tutte condizioni che predispongono non solo a quelle condizioni, parlo di tipo sistemico come ipertensione, diabete, malattie vascolari, ma predispongono anche a una condizione che poi potrebbe sviluppare una vera e propria forma di demenza, oppure lo sviluppo di una malattia cerebrovascolare, quindi una maggiore predisposizione all'ictus. Da questo punto di vista noi dovremmo stare attenti e cercare di avere un'alimentazione sana ed equilibrata. Come dicevo prima, la dieta mediterranea riassume tanti punti a favore e da questo punto di vista la dieta mediterranea è proprio farina del nostro sacco, quindi certo. Perché non andare in quella direzione? Ci stanno segnalando che il nostro numero verde ha qualche problema. Esatto, potete chiamarlo però da un numero fisso, dal cellulare è possibile che vi dica che il numero è inesistente, ma state certi, state tranquilli, ci stiamo occupando anche di questo caso. Se il cellulare non avete alternativa, scriveteci degli sms, cercheremo di accontentarvi con questa modalità. Per chi se lo fosse dimenticato, 349-238-6666. Oppure chiamateci da un numero fisso. Ottimo. E per tenere in allenamento il nostro cervello, io vi propongo di provare a rispondere al quizzettone di oggi. Le vitamine sono molto importanti per il nostro cervello, il professor Zappia ce l'ha detto, ma c'è un gruppo di vitamine che lo è in modo particolare, perché una sua carenza può produrre dei danni neurologici. Sapete individuare qual è il gruppo di queste vitamine così importanti? 800 24 00 24 se ci chiamate da un telefono di rete fissa, 349 238 6666 se provate a rispondere attraverso il vostro cellulare, ci mandate un messaggio, naturalmente poi al professor Zappia chiederemo di raccontarci il motivo di questa relazione. Intanto, professore, volevo sottoporle una domanda che è arrivata via sms e che vuole indagare la relazione tra metalli pesanti e salute del nostro cervello. Che cosa dicono le ricerche? Beh, i dati a questo proposito non sono del tutto chiari, nel senso che vi sono una corposa mole di lavori che associano lo sviluppo di malattie neurodegenerative, come ad esempio la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia gravissima, una malattia che riguarda i motoneuroni, quindi le cellule nervose che poi fanno muovere i muscoli, tanto per intenderci, associata appunto all'assunzione, probabilmente anche con la dieta, ma anche con la contaminazione ambientale di metalli pesanti. Quali sono questi metalli? Beh, l'arsenico, che può essere presente nelle acque, elementi in tracce come il litio, come il piombo, in passato addirittura lo sviluppo della demenza di Alzheimer venne messa in relazione con le paste, gli amalgami presenti nelle protesi dentarie. Per cui questo è un campo che ancora non ha dato delle risposte di certezza. Vi sono delle indicazioni che metalli pesanti potrebbero avere un ruolo nello sviluppo delle malattie neurodegenerative. Mm. Professore, abbiamo detto che il nutrimento è importante, ma non è solamente importante quello che mangiamo, ma come nutriamo il nostro cervello, no? Che, mantenere la riserva cognitiva, perché questa si nutre di cibo immateriale, istruzione, rapporti sociali e lavorativi, attività ludiche, hobby e insomma tutto quello che impegna il nostro cervello, che come, no, un muscolo va sempre allenato. Quali sono qual è la dieta ideale per mantenere il nostro cervello attivo? Ci sono delle persone che fanno il cruciverba, provano a misurarsi con dei giochini anche suggeriti che si possono anche fare al computer o tramite il PC. Questo è questo che serve al nostro cervello, oppure imparare cose nuove, ad esempio una lingua, o evitare la tecnologia? C'è uno studio interessante sui taxisti londinesi tra quelli che hanno utilizzato il TomTom e quelli che invece hanno cercato di orientarsi ricordando le strade a memoria. Professor Zappia. Beh sì, e questo è un aspetto importantissimo. Il nostro cervello va nutrito sia da un punto di vista alimentare, ma anche da un punto di vista intellettivo. E sotto l'aspetto intellettivo intendo non soltanto la capacità di mantenere allenato il cervello con parole crociate o con attività esclusivamente di tipo intellettivo, ma anche con la socializzazione, con una vita di relazioni intensa che ci possa mettere quotidianamente a contatto con gli altri. E il cervello è un organo, se noi pensiamo ai nostri muscoli ad esempio, per allenarli certamente abbiamo bisogno di cibi pieni di calorie ed eventualmente di proteine, però occorre anche l'esercizio fisico. L'esercizio che il nostro cervello deve fare per fare i propri muscoli è appunto un esercizio di tipo intellettivo. Naturalmente più l'atteggiamento è un atteggiamento costruttivo, è un atteggiamento partecipato in prima persona, quindi uno stile di vita attivo, tanto più importanti saranno le conseguenze. A che cosa mi riferisco? Prima il vostro ascoltatore diceva che da sempre ascolta Radio 24 e il suo cervello di questo ne ha goduto. Probabilmente è più importante ascoltare la radio, ad esempio, in cui si possono attivare delle altre facoltà mentali, ad esempio di tipo immaginativo, piuttosto che recepire passivamente il messaggio televisivo. Questo, professor Zappia, lo ritagliamo e lo mettiamo sul nostro sito come testimonial. Questo altro ci fa molto piacere. Lo in definiamo, effetti, esatto. L'attenzione attiva. Eh sì. Fa la differenza. Professor Zappia, lei ha parlato di esercizio, ma se, tornando ai gusti del nostro cervello, se il nostro cervello fosse una persona sarebbe sicuramente uno sportivo, perché l'attività fisica lo aiuta a mantenersi sano. È dimostrato infatti che l'esercizio fisico può aumentare la produzione di fattori di crescita del cervello, della serie chi si muove salva il cervello. Ma com'è possibile? Assolutamente sì. Oramai abbiamo non solo tanti studi di tipo epidemiologico che hanno evidenziato come chi si muove sviluppa in minore misura quelle condizioni degenerative di cui abbiamo parlato, ma abbiamo anche delle evidenze di tipo sperimentale. Sì. L'esercizio fisico nel muscolo provoca la produzione di questi fattori di crescita nervosa, il BDNF, uno di quei fattori di crescita per cui la nostra Rita Levi-Montalcini ottenne il premio Nobel. E questi fattori di crescita nervosa non servono a nient'altro che a permettere l'instaurarsi di connessioni tra cellule nervose. Non è soltanto importante il numero di cellule nervose che abbiamo a disposizione, ma anche il numero di connessioni che queste cellule nervose riescono a stabilire tra di loro. Il concetto di riserva cognitiva nasce proprio da questa considerazione, che il numero di contatti determina quella plasticità sinaptica, così si chiama in termine tecnico, in grado di farci avere nel corso della vita, farci assumere nel corso della vita una riserva per queste abilità cognitive che poi ci porteremo quando saremo più anziani. Chi ha maggiore riserva cognitiva è dimostrato che ha un minore rischio di sviluppare patologie come l'Alzheimer. Quindi questo tipo di attività, anche di tipo fisico, è assolutamente indispensabile perché la nostra riserva cognitiva venga accumulata nel corso degli anni. In altre parole, è come se dovessimo cercare per tutta la vita di risparmiare un qualche cosa che un domani, quando saremo anziani, ci possa tornare utile. Perfetto, lei è il nostro ospite ideale. Hai visto come fatto? Mi sono già brillati gli occhi. Un promo per la radio. Sì. Adesso fa un collegamento alla Cuore Denari. Professor Zappia, lei deve ha venire un po'. Ha scalato tutte le classifiche dei nostri ospiti preferiti. Venga a vivere podio. Qua a Milano. Professore, quindi chi ha testa muscoli? Ah, va bene, però sa, anche al sud si sta bene. Lo credo. Qui al sud, a Catania ad esempio, abbiamo tanti alimenti che ci consentono di assumere quegli antiossidanti e quei micronutrienti essenziali. Adoro. Per la nostra dieta. Per si questo, pensa all'arancia rossa. Per questo ha fatto tutti questi collegamenti, vedi bene. Il professor Zappia. E noi ne faremo uno aereo, guardi, per venirla a trovare. Va professore, molti ascoltatori che non riescono a raggiungerci, ormai è chiaro, attraverso il nostro numero verde. Provate però, magari ce la fate a superare la barriera rossa. Tantissimi messaggi arrivano, non ce la facciamo più neanche a leggerli tutti. Arrivano tantissimi messaggi, quindi continuate a rimanere in contatto con noi con il 349-238-6666. Ci scrivono di sottolineare il ruolo dello zucchero come veleno per il nostro cervello. Ma è davvero così, professor Zappia? Ma guardi, dire che lo zucchero sia un veleno mi sembra eccessivo. Lo zucchero, come tutti i carboidrati, anzi appartiene a quei macronutrienti che consumiamo rapidamente e che rappresentano la sorgente base per poter produrre quell'energia di cui il nostro cervello ha bisogno. Certamente una dieta ricca in carboidrati o una dieta ricca in zucchero poi crea tutta un'altra serie di problemi, ma perché si vanno a incrementare quei fattori di rischio per condizioni sistemiche di cui abbiamo già parlato. Ma in termini assoluti io non direi che lo zucchero di per sé è un veleno, è quel macronutriente base che serve per produrre la nostra energia. Gli atleti prima di una prova fisica mangiano carboidrati, e così anche per il nostro cervello. Un'intensa attività intellettiva presuppone che dello zucchero dei carboidrati possano arrivare a quelle cellule nervose che poi dovranno lavorare per sostenere i nostri sforzi quotidiani. Professore, io vorrei soffermarmi sulla dieta che viene suggerita a chi ha ricevuto diagnosi ed è in trattamento per una malattia neurodegenerativa. Naturalmente lo sappiamo, la dieta va personalizzata, non si può parlare di un menù universale, ma ci sono delle raccomandazioni che si basano su delle evidenze. Lei ha sottolineato il ruolo protettivo e preventivo della dieta mediterranea, ma ad esempio chi soffre di Parkinson sembra possa trarre vantaggio da una dieta prevalentemente vegetariana, basso contenuto proteico. Sì, sino ad ora noi abbiamo parlato di alimenti come possibili veicolo di protezione per lo sviluppo di alcune malattie, ma la dieta deve essere parte integrante di alcune terapie. Ad esempio nel Parkinson, il cui farmaco principale è la levodopa, deve essere assorbito a livello intestinale attraverso un meccanismo, come dire, di competizione con altre proteine, può risentire appunto della contemporanea assunzione di cibo ricco in contenuto proteico. Da questo punto di vista, perché la levodopa possa funzionare bene e possa essere trasformata in dopamina, occorre, naturalmente non in tutti i pazienti, mi riferisco soprattutto ai pazienti in fase più avanzata di malattia, è bene che appunto i contenuti proteici della dieta vengano distribuiti differentemente durante l'arco della giornata. Spesso i pazienti riferiscono che nel pomeriggio stanno peggio rispetto al mattino. Ecco, probabilmente questo è dovuto perché l'assunzione della levodopa con il pranzo ha delle interferenze, diciamo così, della levodopa, e quindi questa levodopa funziona peggio il pomeriggio rispetto al mattino. Varrebbe la pena in questo caso spostare l'assunzione di proteine alla sera anziché prenderle con il pranzo di mezzogiorno. Teresa ci chiama dalla provincia di Milano e è riuscita a superare la nostra barriera rosa. Qual è il gruppo di vitamine essenziali per il nostro cervello, la cui carenza nel caso può provocare danni neurologici? Vitamine B, del gruppo B. Professor Zappia, è corretto. Teresa, sono proprio le vitamine del gruppo B, la cui carenza nella dieta può determinare l'insorgenza di disturbi neurologici. A tal proposito vi sono degli stili di vita estremi in cui l'assunzione di questo tipo di vitamine può essere fortemente ridotto, se non del tutto assente. Purtroppo queste vitamine, soprattutto la vitamina B12, è una vitamina di esclusiva derivazione animale. Professor Zappia, io devo salutarla, la ringrazio, mi dispiace per i nostri ascoltatori che non sono riusciti a parlare con lei per un problema del nostro numero verde, quindi tocca tornare. Grazie, buona giornata. Ci saluti Catania, che amiamo molto. Grazie a tutti i ragazzi che ci seguono sempre in redazione, in assistenza tecnica. Noi torniamo domani con il nostro numero verde. Cuore e denari.